Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Recessione senza precedenti per l'Europa. La Commissione stima un calo del PIL per la pandemia di oltre il 7% nell'area euro e del 9,5% in Italia. Decreto maggio, il governo incontra le aziende. Conte, riaperture anticipate se i dati lo consentiranno. Governo diviso invece sulla sanatoria dei braccianti agricoli. È contrario al Movimento 5 Stelle, ma la ministra Bellanova, in caso di stop, minaccia le dimissioni. Germania verso la riapertura di negozi e scuole a maggio, saranno le regioni a decidere. Buongiorno Alessio Maurizi dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24, che iniziamo con le notizie che sono in realtà le stime della Commissione Economica della Commissione Europea sull'andamento dell'economia europea quest'anno, con un calo previsto del PIL per quanto riguarda l'area euro molto importante. Ancora peggio il dato per quanto riguarda l'Italia. Ci racconta tutto Sergio Nava. Buongiorno, è un quadro da economia di guerra quello che ha presentato oggi la Commissione Europea nell'ambito delle previsioni di primavera. I dati indicano che l'attività economica in Europa è crollata a una velocità inedita nelle ultime settimane. Le misure di contenimento messe in campo dai Paesi membri a metà marzo per rispondere alla crisi hanno ibernato l'economia, afferma Bruxelles, secondo cui l'Unione è entrata nella più profonda recessione economica della sua storia. I dati parlano da soli, per l'Eurozona si prevede un crollo del PIL quest'anno pari a 7,7%, tre decimali sopra l'intera Unione. Le speranze sono tutte riposte nel 2021, quando il rimbalzo dovrebbe portare a una crescita superiore al 6%. Per l'Italia le previsioni parlano di una profonda recessione con un rimbalzo tecnico nella seconda metà dell'anno. Nel 2020 il nostro PIL perderà il 9,5% per crescere il prossimo del 6,5%. Il nostro export vedrà un calo sostanziale, mentre il settore turistico pagherà dazio più di tutti. Il deficit esploderà all'11% quest'anno per dimezzarsi il prossimo, mentre il debito sfiorerà il 160% del PIL. In Europa solo la Grecia vedrà un calo del PIL maggiore rispetto all'Italia. Tra i paesi più grandi l'Italia è stata colpita per prima e con più forza. L'economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020, ciò nonostante si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri paesi, ha affermato il commissario europeo agli affari economici Gentiloni. È tutto. Grazie Sergio, insomma fin qua le stime europee che certificano quello che già era evidente, il calo delle attività produttive, e adesso invece che cosa si sta cercando di fare per risollevare la situazione economica? Il governo è al lavoro sul decreto maggio con la mini manovra da 55 miliardi, sentiamo. Contributi a fondo perduto, ristoro integrale sugli affitti, taglio delle bollette per le aziende più piccole, capitalizzazione anche per quelle più grandi, sono le misure previste nel decreto maggio da 55 miliardi sul tavolo dell'incontro questa mattina tra governo e imprese. Presenti Confindustria e ANCE, tra i nodi critici l'ingresso dello Stato nel capitale delle PMI, norma a cui sono contrari i renziani. Nella maggioranza continuano intanto le discussioni anche sul reddito di emergenza da 400-800 euro, fondi per le famiglie e per la sanità. Sul fronte lavoro, oltre all'allungamento della cassa integrazione e al blocco dei licenziamenti, l'ultima novità, illustrata ieri a sindacati e terzo settore, riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, ma non i salari, attraverso un fondo ministeriale. Prorogati il bonus autonomi per aprile e maggio, il congedo straordinario per i genitori e il bonus babysitter. Pronto l'aiuto per colf e badanti fino a 600 euro, atteso un super bonus per l'edilizia al 110%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'argomento al centro della discussione politica, con diverse tensioni tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della maggioranza stessa. Parliamo della regolarizzazione dei lavoratori agricoli. Nella maggioranza sale la tensione sulla sanatoria per i lavoratori stranieri irregolari che la ministra dell'Agricoltura Bellanova vorrebbe inserire nel decreto maggio. Non è una battaglia strumentale per il consenso, queste persone non votano, dice l'esponente di Italia Viva. Se il provvedimento non passa, questo sarà motivo di riflessione sulla mia permanenza nel governo, avverte Bellanova, che oggi vedrà il premier Conte. Favorevoli alla sua proposta sono il PD e la ministra dell'Interno Lamorgese. Un secco no arriva invece dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Crimi, ospite di 24 Mattino. Emersione di lavoro nero o lotta al caporalato sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia, che siano italiani o stranieri. ma se, come ho potuto leggere, c'è anche intenzioni di fare una sanatoria modello Maroni, noi non ci stiamo. Contrario alla sanatoria è anche tutto il centrodestra. Per il leader della Lega Salvini, ad un settore strategico come quello dell'agricoltura servono aiuti a fondo perduto e non regolarizzazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in fase 2 ci vorranno alcuni giorni ancora per vedere i dati epidemiologici e per capire se ci sarà un'inversione di tendenza sull'andamento della curva. Il monitoraggio dei dati tra il governo e le regioni è quotidiano, ha detto ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Sentiamo come sta andando. L'epidemia in Italia è in costante rallentamento e gli ultimi dati della Protezione Civile indicano ancora 236 decessi a fronte di un calo dei contagi, poco più di 1000 nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal 10 marzo. Se i dati confortano, le regioni sono ora alle prese con il rebus della ripartenza. In Lombardia riapre al traffico passeggeri l'aeroporto bergamasco di Orio al Serio e il vicepresidente Fabrizio Sala riferisce che il tasso di contagio è ora di 0,75 e che la regione lavora una nuova delibera sulla fase 2 basata su tracciamento e sorveglianza sanitaria con tamponi anche a domicilio. Ma sui test le polemiche e le incertezze continuano. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiede chiarezza alla regione annunciando la decisione di sottoporre a test sierologico i conducenti dell'azienda milanese dei trasporti. Intanto al Pio Albergo Trivulzio di Milano, storica residenza per anziani al centro di un'inchiesta, ci sono stati 300 morti tra gennaio e aprile rispetto ai 186 decessi medi dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la cronaca a livello globale dell'andamento dell'epidemia. La Gran Bretagna supera l'Italia per quanto riguarda il numero delle vittime. In Germania invece era giunto un accordo per riaprire scuole e negozi. Riaprire, anche se ci saranno più morti, così Donald Trump in Arizona. Gli Stati Uniti sono il paese con il più alto contagio al mondo, 1.200.000, 71.000 i morti. Non possiamo mantenere il nostro paese chiuso per i prossimi 5 anni, dice Trump durante una visita ad una fabbrica che produce mascherine, un concetto simile a quello che aveva dichiarato il premier inglese Johnson prima di essere colpito egli stesso dal coronavirus. Un paese, la Gran Bretagna, che in Europa registra finora il numero più alto di vittime. L'aggiornamento arriva dall'ONS, l'Istat britannico, che in una nuova stima al 27 aprile parla di oltre 32.000 morti, con l'aggiunta anche dei decessi classificati come casi sospetti di Covid-19. In Francia, intanto, dove si contano oltre 25.000 vittime, il Senato vota nella notte il disegno di legge che estende lo stato d'emergenza sanitaria sino al 10 luglio. Per il terzo giorno consecutivo calano invece i decessi in Spagna, dove nelle ultime 24 ore sono 185 le vittime, in totale 25.000 i decessi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 376 detenuti pericolosi scarcerati, tra loro boss e narcotrafficanti, ma anche 3 detenuti al 41 bis, tutti mandati ai domiciliari per motivi di salute e rischio Covid nell'ultimo mese e mezzo. Si tratta di una lista riservata che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inviato mercoledì scorso alla Commissione Antimafia. Ma si può mandare a casa un 41 bis? Lo abbiamo chiesto al Garante Nazionale dei Diritti del Detenuto, Daniela De Roberto. 41 bis non accedono alla detenzione domiciliare. I casi di cui si è tanto parlato sono casi in cui sono state applicate altre misure, la sospensione della pena per motivi gravi, motivi di salute, con detenzione domiciliare, perché in quel caso, tra l'altro, se parliamo della Sardegna, il magistrato di sorveglianza ha visto che non c'era nessuna struttura ospedaliera della regione in grado di ospitare una persona in quella misura. Avendo chiesto al Dipartimento cosa fare, non avendo ottenuto risposte, ha deciso per la salute, per la tutela della salute della persona. Ci sono delle strutture specifiche dove le persone a 41 bis possono essere ricoverate, ce ne sono diverse sul territorio italiano. E ora parliamo dei musei, che potrebbero essere tra coloro che riapriranno il 18 maggio, ma su questo c'è ancora qualche perplessità all'interno del governo. Gli spazi poi dei musei potrebbero invece essere utilizzati anche per le attività educative per i bambini in estate. Sentiamo. La fase 2 è partita e anche il mondo della cultura, uno tra i più colpiti dalla pandemia, tenta di ripartire. Le imprese che operano nel settore culturale hanno subito perdite enormi per milioni di euro. Musei e mostre dovrebbero riaprire i battenti il 18 maggio, ma c'è chi lo ritiene ancora tecnicamente insostenibile. Ci si chiede quanti, con i contagi e la paura ancora diffusi e dopo oltre 2 mesi di quarantena in casa, vorranno recarsi in un luogo chiuso come uno spazio espositivo. Con le restrittive misure di sicurezza per assicurare il distanziamento sociale, i termoscanner per rilevare la temperatura corporea, la separazione di spazi di entrata e di uscita e gli elevati costi di sanificazione, tutto diventa economicamente insostenibile. Infine mancheranno i prestatori nazionali ed internazionali finché non c'è la certezza di poter viaggiare. Il tempo giusto per riaprire per alcuni potrebbe essere settembre, sempre sperando che non riparta l'epidemia. Secondo l'International Council of Museums, il 90% dei musei nel mondo ridurrà drasticamente la sua programmazione. Addio dunque grandi eventi e file oceaniche. E come già sperimentato in quarantena, continuare a sfruttare internet e la tecnologia per condividere le proprie collezioni sulle piattaforme digitali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 12 minuti, fin qua le principali notizie in sintesi. Nella seconda parte di Effetto Giorno riparteremo da un sondaggio esclusivo per Radio 24 di YouGov. Gli italiani sono favorevoli alla fase 2, alla ripartenza, ma quasi il 40% pensa che sia troppo prematura. Poi la testimonianza di un paziente guarito grazie alle cure al plasma all'ospedale di Mantova. E poi alle 13.30 l'intervista al professor Andrea Crisanti. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Recessione senza precedenti per l'Europa. La Commissione stima un calo del PIL per la pandemia di oltre il 7%. Decreto maggio, il governo incontra le aziende, conte riaperture anticipate, ma se i dati lo consentiranno. Governo diviso invece sulla sanatoria dei braccianti agricoli, è contrario al Movimento 5 Stelle, ma la ministra Bellanova in caso di stop minaccia dimissioni. Italiani favorevoli alla fase 2, a Effetto Giorno il sondaggio esclusivo di YouGov. La maggioranza è d'accordo, ma il 40% teme che sia troppo presto. Le 13:15, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, questi titoli di oggi avete sentito, tra poco vi racconteremo del punto di vista degli italiani sulla fase 2, un sondaggio esclusivo per Radio 24. Adesso però un'altra intervista che forse è un'esclusiva ed è quella ad una paziente, una persona che è stato affetto dal Covid ed è stato curato con le terapie al plasma di cui tanto si parla all'ospedale di Mantova. È con noi, lo ringrazio, Mario Scali, che tra l'altro è un medico nella vita, medico a Parma, e appunto ha attraversato questa esperienza personale. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto faccio una piccola premessa, perché noi stessi in questo stesso orario, in questo stesso spazio, abbiamo intervistato il professor De Donno, che al Carlo Poma di Mantova è tra quelli che stanno applicando questo protocollo. Per ora in fase sperimentale, si attestano, diciamo, le validazioni scientifiche, ci sarà anche una pubblicazione, lo stanno facendo a Pavia, a Mantova, ma anche all'ospedale di Pisa, quanto mi risulta. Si tratta di una cinquantina di pazienti curati così, si estrae il plasma dai guariti che hanno gli anticorpi per il Covid, con particolari condizioni naturalmente, poi questo si inietta nel sangue dei malati, gli anticorpi entrano in azione, la malattia quasi sempre, non dico che svanisce alla prima iniezione, ma insomma quasi. Ha fatto parlare del miracolo questa cura, un miracolo però naturalmente non è, la terapia del plasma non ha la loro antica tradizione, però l'Istituto Superiore di Sanità, le autorità frenano in parte perché dicono è una cura comunque complessa, non potrà sostituire farmaci su vasta scala, perché pensare di curare milioni di persone così non sarà facile. In ogni caso non è assolutamente un'alternativa ai vaccini, che sono un'altra cosa, servono a prevenire. Però dottor Scali, intanto io le chiedo, lei quando è iniziata la sua esperienza con la malattia? Quando si è ammalato? Ma allora, io a metà marzo ho cominciato ad accusare un malessere che come medico attribuivo a una forma influenzale, anche se già l'infezione Covid era diciamo galoppante. E dopo una settimana circa le condizioni continuavano a peggiorare, febbre alta di notte, alterazione del gusto e dell'olfatto, ovviamente ero a letto a riposo, bastava che mi alzassi qualche minuto e cominciavo a tossire in una maniera assolutamente convulsiva che non si bloccava. E quindi questo ha fatto decidere mia moglie, che è medico anche lei e lavora proprio al Carlo Poma, l'ha fatta decidere a portarmi all'ospedale Carlo Poma. Ecco perché lei da Parma è finito a Carlo Poma di Mantova, perché esatto. Sua moglie lavora lì. Esatto. E com'è andata poi con il ricovero? Ah, il ricovero, io il 23 di marzo sono arrivato in pronto soccorso, il giorno successivo sono entrato al reparto di malattie infettive del dottor Casari. Le mie condizioni, diciamo, i parametri di ossigeno continuavano a peggiorare, al che sono stato trasferito al reparto di terapia intensiva della pneumologia, primario il dottor De Donno, che ormai tutti voi conoscete, e quindi ho fatto praticamente ho cominciato con la ventilazione assistita, con la maschera sul viso, con l'ossigeno, e direi immediatamente mi è stato trasfuso una sacca di plasma iperimmune. Ed è preciso che io dovrei essere il paziente numero 2 di Mantova, e a quell'epoca ancora Mantova, parliamo dei primi del 25 marzo circa, ancora non producevano loro il plasma, per cui il mio plasma è arrivato direttamente da Pavia, che è la capofila di questa sperimentazione. Allora, il dottor Scali, appunto, è un dottore, lo dico per gli ascoltatori che magari si sintonizzano adesso, parla. Sono un medico di famiglia. Esatto, di quello che è accaduto a lui, ma essendo un medico, capite che maneggia anche questi concetti con una certa familiarità. Quindi il suo plasma è arrivato da Pavia, che è capofila in questo progetto in cui si sperimenta. Esatto. Lei era comunque in condizioni abbastanza critiche quando è stato iniettato il plasma, perché non migliorava, non guariva, era a rischio intubazione, giusto? Esatto, io avevo cominciato la terapia, la classica terapia con gli antivirali, con l'idrossiclorochina e ovviamente, come si fa in questi casi, con gli antibiotici di copertura. Quindi mi è stato trasfuso il plasma e io devo dire che già dal giorno dopo mi sentivo migliorato. I parametri ancora erano molto, molto seri e molto importanti, però percepivo qualcosa che era cambiato. Non è un effetto placebo, lo posso garantire. Insomma, non credo, perché lei era a rischio intubazione, era ricoverato in gravi condizioni e nel giro di un giorno si è sentito meglio. Ha avuto un'altra trasfusione? È bastata una sola, nonostante avessi una viremia, cioè una quantità di virus nel sangue molto molto alta. Cioè lei ovviamente era in quella fase, dottore, nella quale c'è la cosiddetta tempesta di reazione immunitaria, no? Il corpo si infiamma tutto perché la reazione immunitaria è molto importante. Quanto tempo ci è voluto perché anche i parametri fossero, diciamo, migliorati, e poi è guarito, insomma. Vabbè, questa è la cosa fondamentale. Allora, dopo dal momento dell'infusione. Allora, mi è stata tolta la maschera, la ventilazione assistita, quindi la maschera con l'ossigeno, quella che copre tutto il viso, dopo 3 giorni dall'infusione di plasma. E poi dopo circa 8 giorni ho cominciato a respirare l'aria ambiente, l'aria ossigeno, mi è stato tolto tutto l'ossigeno. Senta, ma parametri... era cosciente quando è stata fatta questa terapia? Le hanno chiesto a lei o ai suoi familiari di sottoscrivere qualche assolutamente qualcosa di particolare? Sì. L'ho sottoscritto io ho sottoscritto il consenso informato, sono stato avvisato che era in corso una sperimentazione alla quale io ho aderito molto molto volentieri e quindi... Quali sono gli effetti collaterali, le controindicazioni in questo consenso informato che lei ha firmato? C'era scritto qualcosa su quello che rischia un paziente che in questa fase si sottopone a un protocollo sperimentale, non una cura, diciamo, accertata al 100%? Posso essere sincero, allora io non l'ho neanche letto, io l'ho firmata perché ero contento di trovare questa nuova strada, perché io avevo iniziato sia gli antivirali sia l'idrossiclorochina però questi farmaci, benché abbiano dimostrato una certa efficacia, hanno anche pesanti effetti collaterali a livello epatico e insomma tante altre cose. Quindi io l'ho firmata di getto. Diciamo che la trasfusione di plasma iperimmune può avere due tipi di effetti collaterali, questo è conosciuto, diciamo, dai dati di letteratura. In teoria si potrebbe scatenare anche una reazione autoimmune successiva, potrebbe essere teorica, cioè potrebbe avvenire, è tutta teorica. E la seconda cosa è che, nonostante il trattamento a cui viene sottoposto il plasma, ci possono essere ancora quelli che noi chiamiamo degli agenti patogeni, cioè dei microorganismi che possano dare delle infezioni. Io, grazie a Dio, oggi è il 6 di maggio, io sto benissimo fisicamente, ma proprio bene, sono tornato quello che ero prima del ricovero, e quindi poi vedremo man mano nel corso del tempo quello che sarà. Però io ribadisco, se me lo consente, un concetto: non è una terapia miracolistica, però laddove abbiamo le armi spuntate, provare con queste terapie che possono dare dei risultati, e a quanto ne so li hanno dati in quasi tutti i pazienti, perché non abbiamo formato un fan club del siero iperimmune, ma tutti diciamo la stessa cosa: tutti ti senti meglio subito, esatto. Nel giro di poche ore ci sono già i miglioramenti. Lei avrà sentito, no? Le polemiche che ci sono state, lo stesso professor De Donno, che è stato anche nostro ospite una decina di giorni fa, poi in qualche modo sui suoi profili social, ma anche in alcune interviste, ha avanzato in qualche modo il dubbio che tutto questo ostracismo, che ci sia dell'ostracismo, c'è stato anche un interessamento dei NAS, eccetera. Lei che idea si è fatto? È davvero un qualcosa che viene osteggiato? C'è mancanza di coraggio? Perché potrebbe esserci anche questo, siccome si tratta di una cura comunque sperimentale. Può darsi che in altri ospedali, per esempio il professor Viale di Bologna, la sua regione, oggi o ieri ha annunciato che non farà queste terapie finché non ci sarà la validazione finale, la pubblicazione scientifica, eccetera. C'è forse paura, coraggio, paura di rischiare? È difficile dirlo. Lei ha citato il professor Viale, con quale non più tardi di un'ora fa ho ricevuto una sua email, perché io gli avevo scritto proprio per questo ostracismo che sto incontrando nella mia regione, che è l'Emilia-Romagna, e alla quale assolutamente ha negato ogni sorta di sperimentazione. Ribadisco, parliamo di una terapia sperimentale. Ovviamente chi la fa, quindi i medici o l'ospedale, possono essere anche in un secondo tempo oggetto di denunce se qualcosa non va per il verso giusto. Se lei vuole il mio parere, io la vedo come una terapia emergenziale, quindi che va fatta in casi in cui non hai altre alternative. Gli studi mi stanno benissimo, però gli studi impiegano molti mesi o anni. Noi, soprattutto, lei dice, se avessimo aspettato gli studi, nel mio caso avrei continuato a soffrire, a stare male, probabilmente sarebbe finito intubato, e non so qual è la storia che avremmo poi raccontato dopo. Sicuramente questo è il suo caso personale, quindi mi sembra che questo sia il suo appello ad utilizzare queste cure come un'arma in più, no? Nell'armamentario che i medici hanno a disposizione c'è anche questo. Io la ringrazio, Mario Scali, per essere stato con noi. Buona, come dire, fase 2 anche a lei, allora, a questo punto. Sì, grazie, buona convalescenza, grazie mille. Grazie. Comunque ormai è quasi finita. Grazie a presto, a lei, buon proseguimento. Buona vita. Grazie. Avete capito, questa era solo una testimonianza tra le tante. Professor De Donno lo abbiamo intervistato, c'è questa area di sospetto che gira intorno, soprattutto sui social, si vogliono favorire case farmaceutiche per quindi mettere i bastoni tra le ruote a questa terapia. Però ricordiamo che lo ha detto anche questa stessa persona che è stata curata in questo modo: non è un'alternativa al vaccino, non sostituisce le altre terapie, è però una cura che si può provare a portare avanti. Forse ci vorrebbe un pochino più di coraggio anche da parte di altri medici ospedalieri a tentare questa strada per salvare delle persone, senza attendere protocolli, validazioni che sicuramente sono necessarie, però se lo stanno facendo a Mantova, parola di medici, è una terapia che esiste da tanto tempo, è conosciuta, allora forza, coraggio. Questo, diciamo, è il mio personale invito. Adesso invece con Anna Marino seguiamo un'altra traiettoria, che è quella delle famiglie che cercano di ripartire, fase 2 anche per loro, è andata nei parchi di Milano a vedere come stanno destreggiando i genitori con bambini, anche a caccia dei pochi negozi aperti. Colpisce il silenzio in cui si riescono a sentire soltanto lo scorrere dell'acqua della fontana, poche voci di bambini, abbaiare i cani e i lavori dei giardini e i cantieri, dei grattacieli di City Life, il centro commerciale urbano più grande d'Italia con una superficie di 32.000 metri quadri, un parco di 172, il secondo più grande di Milano, circa 100 negozi. E noi proprio qui abbiamo sentito le voci delle famiglie di lavoratori con bambini a casa, nella loro nuova normalità, fase 2, finalmente, in giro nel verde. Sì, siamo usciti ieri con il cane, e per i bambini è la prima uscita formale, a parte un paio di giri in bicicletta, è molto emozionante, sono molto felici. Quanti anni hanno? 4 la Emma e 5 Jacopo. Jacopo e Emma. Come si organizza per la scuola? Abbiamo una tata che fortunatamente ha ricominciato ad aiutarci qualche ora, tenendo le distanze. La gestione dei bambini è comunque un po' complessa, io lavoro in smart working, mio marito anche, finché possiamo. Ha un po' paura anche per i bambini? Un pochino ancora sì, nel senso che sono molto diffidente sul rispetto da parte di tutti. Bambini assolutamente la mascherina, gli ho promesso adesso che ne compreremo una colorata. Un papà che porta in giro bimbo? Quasi 2 anni. Ecco, tenerla a casa non è stato facile? No, in questo momento qua no. E come fate per lavorare? Lavorare da casa, smart work. Beh, cioè io sì sto attento, perché lei sempre con la maschera, poi siamo usciti ecco questi 2 giorni, io sto 2 mesi che sto dentro casa. Ecco, essendo stati insieme, almeno c'è la nonna che aiuta a casa. Vieni Zoe, vieni. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. E ora, come annunciato, è con noi Francesca Soldi di YouGov. Francesca, ciao, ben ritrovata. Buongiorno. YouGov, società di analisi e ricerche internazionali, sondaggi e ricerche di mercato internazionali, che ha attestato le opinioni degli italiani sia sulla fase 2, sulla ripartenza, sia il momento giusto, sia troppo presto, sia anche un po' più in generale su come la vedono gli italiani, se pensano di essere preparati per questa fase, se siamo sufficientemente informati, e poi anche quali sono le attività principali che gli italiani vorrebbero ritornare a fare dopo tutto questo lockdown. Francesca, prima cosa sulla tempistica, sembra che gli italiani siano favorevoli a ripartire adesso, ma con qualche distinzione anche delle forti perplessità. Esatto, nel senso che abbiamo chiesto agli italiani cosa pensassero della tempistica del far ripartire adesso questa fase 2, abbiamo trovato una situazione piuttosto polarizzata, nel senso che il 38% pensa che la riapertura sia arrivata nel momento giusto, il 37% ritiene che la riapertura sia ancora prematura e poi abbiamo un 17% che dichiara che si è addirittura aspettato troppo per cominciare questa fase 2. Quindi, volendo però fare una semplificazione, una somma, diciamo, tra chi pensa che ci si sia arrivati forse addirittura tardi e chi pensa che sia il momento giusto, si arriva comunque a una maggioranza di italiani favorevoli alla fase 2. Resta un 37% che invece ha paura che sia troppo presto. Esatto, poi in realtà su questo punto pesano sicuramente quelle che sono le classiche variabili sociodemografiche, sì, del caso, quindi essere quelle di genere, età e zona di residenza, perché in generale abbiamo notato che le donne risultano maggiormente cautelative, sì, è più probabile infatti che abbiano risposto che era ancora troppo presto, sì, per riaprire, il 43% verso il 30% degli uomini. Poi abbiamo notato che per quanto riguarda l'età, abbiamo la fascia più giovane fra i 25 e i 34 anni, che invece è più probabile che abbiano risposto che era il momento più adatto, certo, con il 47%. Questo è immaginabile, invece, no? Perché si sa che i giovani sono, sì, meno toccati dalla malattia, forse sono anche per età più, vogliamo così usare un'espressione un po' azzardata, incoscienti o quantomeno insomma forse più propensi al futuro. Sono più preoccupati naturalmente gli anziani, ovvio, anche perché sono quelli più toccati dalla malattia. Esatto, sono quelli più toccati. Sicuramente è interessante vedere la parte geografica, sì, di questa cosa, nel senso che il nord-est sembra quello più scalpitante per la riapertura. Per la riapertura. In particolare rispetto al centro, al sud Italia, è più probabile che le persone che risiedono nel nord-est abbiano risposto che si è aspettato troppo troppo tempo troppo per riaprire. Sono più, vogliono partire prima. Senti, un'altra cosa riguarda invece il livello di informazioni. Voi avete testato questo, cioè va bene ripartire a questo punto, lasciamoci alle spalle la scelta sulla tempistica perché la fase 2 è partita. Se gli italiani ritengono di essere, come dire, stati informati a sufficienza, se sia stato chiarito bene qual è la linea da tenere, la strategia, su questo cosa è emerso? Allora, abbiamo fondamentalmente chiesto due cose: se fosse stata l'informazione abbastanza chiara e completa, quindi entrambe le cose. E quello che emerge è che il 37% dichiara che tutte le informazioni fornite al momento dell'annuncio fossero chiare, mentre il 49% asseriva che lo fossero solo alcune informazioni. Quindi una maggioranza, insomma, quasi anche qui una polarizzazione, ma una maggioranza abbastanza netta, quasi il 50%, che ritiene di non aver avuto una chiarezza informativa sufficiente per quanto riguarda la fase 2. L'ultima cosa che ti voglio chiedere invece riguarda la questione delle attività a cui si cerca di si guarda, no? Di voler ritornare. In particolare avete fatto un sondaggio a parte su come verrà vissuto uno dei luoghi simbolo della vita italiana, cioè il bar, il ritorno al bar. Esatto, nel senso che ci siamo accorti che una delle attività che avrebbe spinto di più gli italiani a uscire nella fase 2 sarebbe stato, ad esempio, in questa prima fase il ritiro di cibo e bevande da sport, e quindi ci siamo concentrati poi per capire se una volta riaperti effettivamente questi ambiti, tipo il bar e le caffetterie, cosa sostanzialmente gli italiani si aspettano che sarà questa esperienza anche banale o comunque quotidiana che andare a prendere il caffè, e cosa si aspetta che venga fatto per garantire loro della sicurezza in più. E abbiamo scoperto che comunque gli italiani, anche in una fase di fine completo di lockdown, vedranno l'esperienza di andare a prendere il caffè al bar come un'occasione per passare del tempo con amici e colleghi, per il 25%, e sempre il 25% lo riterrà comunque un momento di pace e relax. Quindi gli italiani continuano a vedere questa situazione come un momento come era prima del lockdown. È un po', insomma, è un po' la nostra luce in fondo al tunnel, insomma, per cui speriamo presto di poterla recuperare. L'ultima cosa velocissima e poi chiudiamo. Ok, sì, e l'altra cosa è che però comunque si aspettano che vengano fatte tutta una serie di modifiche e di accorgimenti per garantire loro della sicurezza. In particolare, l'ultimo dato che vi do è che il 72% degli italiani comunque si dichiara disposto a pagare anche di più un caffè perché questa sicurezza igienico-sanitaria venga loro garantita. Va bene, grazie Francesca Soldi di YouGov, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Andiamo velocemente in pausa, torniamo tra poco, borsa titoli e poi intervista con il professor Crisanti. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Recessione senza precedenti per l'Europa. La Commissione stima un calo del PIL per la zona euro di oltre il 7% nel 2020. Decreto maggio, il governo incontra le aziende. Maggioranza divisa invece sulla sanatoria dei lavoratori agricoli, contrario al Movimento 5 Stelle, la ministra Bellanova in caso di stop minaccia dimissioni. Nella fase 2 dovremo fare più tamponi, l'appello di 150 scienziati a effetto giorno, ne parliamo tra poco con Andrea Crisanti. 13:38 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Salto per mancanza di tempo il consueto appuntamento con i vostri messaggi, il commento ai vostri messaggi, la lettura dei vostri interventi, e vado direttamente al punto del vice direttore del Sole 24 Ore, che oggi è dedicato al tema caldo della sanatoria dei braccianti. Il punto di Alberto Orioli. La ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova minaccia le dimissioni. Ha posto il tema della regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari, manodopera indispensabile per l'agricoltura proprio in queste settimane di campagne di raccolta. Bellanova vede la regolarizzazione per 600.000 persone. La sua collega Luciana Lamorgese, titolare dell'Interno, riduce la quota a poco più di 200.000 unità. Sia come sia, lo scontro non è tra le due ministre, ma nella stessa maggioranza, tra 5 Stelle, PD e Italia Viva. Il tema della regolarizzazione è manna per la propaganda salviniana e questo il governo lo sa e lo teme, anche perché ha la coda di paglia dei navigator e dei percettori del reddito di cittadinanza che quel lavoro si guardano bene dal farlo. Ma è anche vero che quegli immigrati sono già oggi nel nostro paese e spesso ingaggiati a 3 euro l'ora, senza controlli sanitari, senza alcun versamento di tasse e contributi e pura manovranza per concorrenza sleale alle imprese per bene, per non parlare di quanto ciò faccia comodo anche alla criminalità organizzata. I braccianti in nero sono l'altra faccia delle badanti in nero, di cui l'Italia non può fare a meno. Forse è arrivato il tempo per fare a meno invece anche della nostra ipocrisia e affrontare il problema con serietà e a mente fredda. Piccolo particolare, regolarizzare 150.000 braccianti significherebbe portare 1,2 miliardi nelle casse dello Stato tra tasse e contributi, oltre che etico, conveniente. Allora, intanto una notizia che è questa: la Germania ha annunciato, non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma insomma a quanto si apprende sta per annunciare la riapertura per quanto riguarda la sua fase 2 dei negozi e delle scuole già entro il mese di maggio, con una delega ai Länder, alle regioni, per decidere quale misure prendere, come allentare il lockdown. Si è detto che la Germania ha fatto un tracciamento, ha tracciato meglio dell'Italia i casi e che ha effettuato più tamponi. Effettivamente, guardando il numero assoluto di tamponi, poi sono maggiori, poi forse pro capite la Germania ha più abitanti, può darsi che, e questa è la posizione delle autorità italiane, che invece l'Italia ne abbia fatti di più pro capite. Però noi siamo anche il paese che è partito per primo, che ha avuto la diffusione più ampia, quindi rispetto al numero di casi i tamponi italiani sono minori. Insomma, di questo parliamo e dell'appello di 150 scienziati affinché aumenti la capacità di fare test e tamponi in questa fase 2. Ne parliamo con Andrea Crisanti, che torna a trovarci. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questa è un po' una disputa anche, no, su chi ha fatto più o meno tamponi nel mondo. Non è possibile risolverla qua, però voi dite in questo appello che rispetto a quello che dicono le autorità italiane, l'Italia è il paese che ne ha fatti di più, eccetera, eccetera, che non è così, perché se guardiamo a parità di anzianità epidemica, l'Italia ne ha fatti molti meno di altri paesi. È come se avessimo avuto una scarsa capacità di reazione di fronte alla crisi. Ci spiega meglio questo concetto? Ma guardi, non posso che essere d'accordo, perché un conto è se i tamponi vengono usati per fare diagnosi o se i tamponi vengono usati per fare sorveglianza attiva. L'Italia li ha fatti principalmente per fare diagnosi e quindi di fatto ha perso l'opportunità di utilizzarli per controllare la diffusione. Lei deve pensare, il numero giusto non è tamponi per abitanti, ma è tamponi per malati. Allora, se noi facciamo questo rapporto tamponi per malati, vediamo immediatamente una differenza pazzesca. Che mentre la Germania ha un rapporto di 1 a 30, 1 a 40 addirittura, la Lombardia ha 1 a 3, 1 a 4 e Veneto si avvicina, mi pare, 1 a 12, 1 a 15. È quello il rapporto che conta, e non solo conta quello, ma conta quando sono stati fatti. Perché se i tamponi vengono fatti tutti quanti all'inizio dell'epidemia o in modo particolare verso la fase finale, dove è più facile aggredire il virus, hanno un impatto completamente diverso. Per questo noi abbiamo fatto questo appello, perché vogliamo che l'Italia sia pronta a ottobre-novembre in caso ci siano dei nuovi focolai. Noi vogliamo che questi focolai vengano struccati sul nascere. Però ecco, professor Crisanti, questi focolai tutta la nostra capacità di fare tamponi. Questa questione di fare tamponi, no? Ancora ad oggi non c'è una risposta chiara, qualcuno che sia riuscito a dire chiaramente perché non se ne è fatti a sufficienza, o meglio, si sono date tante risposte, cioè all'inizio avevamo una capacità, per esempio, di laboratori scarsa, ce n'erano 3 in Lombardia, se abbiamo approfondito anche questo aspetto, poi sono diventati 25, la stessa cosa è accaduta in altre regioni, c'è stata la questione dei reagenti scarsi, che poi anche questo l'approvvigionamento è aumentato, qualche azienda locale se le produce localmente, c'è il tema del personale. Perché fino ad oggi non si è fatto questo scatto? Lo chiedo anche a lei. Ma guardi, lei in qualche modo ha elencato tutta una serie di ragioni che, se sommate e si aggiunge poi le difficoltà burocratiche, la mancanza di flessibilità e in qualche modo anche, devo dire, la dipendenza di alcune realtà locali all'approvvigionamento di reagenti, è chiaro che questo poi è risultato nel fatto che la capacità di reazione, cioè di aumentare la la produzione di tamponi. Tutto questo insieme. Voi però in Veneto siete... Non c'è mai una causa sola. Voi però in Veneto ne avete fatti di più, li avete fatti, come ci diceva prima, con l'obiettivo di fare una sorveglianza del territorio, quindi non solo una diagnostica. E lo stesso Gianni Rezza ieri ha detto che bisogna fare uno scatto, guardare a quello che avete fatto voi. La Lombardia ha annunciato che cambierà strategia, che aumenterà la capacità di fare i tamponi, per esempio, a domicilio. Voi come siete riusciti a realizzare questo tamponamento, parola brutta, ma insomma questo è in maniera più a tappeto. Guardi, sono una serie di circostanze poi di fatto positive. La prima è che il Veneto ha sviluppato nel tempo una rete territoriale di sorveglianza epidemiologica molto, molto fitta, e la ragione è che noi in Veneto praticamente da 5-6 anni ogni anno, dopo l'inizio dell'estate, abbiamo un'epidemia da West Nile virus, e quindi noi abbiamo creato la capacità di fare saggi diagnostici da soli, perché non è che è molto facile trovare, specialmente all'inizio, trovare saggi test diagnostici per una malattia come questa. Quindi ci eravamo attrezzati a farli in casa. Il nostro laboratorio era un centro di sorveglianza per le malattie rare e per le malattie emergenti. È chiaro che se è una malattia emergente, per definizione è una malattia di cui non si conosce la diagnosi, non si sa la terapia, non c'è un vaccino e non c'è neanche un test diagnostico. Quindi la prima cosa, quando noi abbiamo avuto notizia di questa malattia emergente, la prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo dati la capacità di fare test, e poi per previsione abbiamo ordinato reagenti per mezzo milione di test, reagenti però fatti in casa, non di quelli che dipendevano dalla fornitura di prodotti, e questo ci ha salvato chiaramente. Quindi diciamo faceva parte di una struttura preesistente. Poi il problema è questo, che in Italia la sanità è regionale, e quindi l'epidemia ha intercettato diverse realtà. Questa è Non esiste una sanità nazionale, questa è una cosa che... Però forse adesso ci vorrebbe una dimensione nazionale nell'organizzazione di questo aspetto, cioè investire anche energie. Il Ministro della Salute Speranza aveva parlato di puntare su questo nella fase 2, ma insomma occorre un investimento nazionale, mi sembra di capire dal vostro appello, per fare uno scatto. Un'ultima cosa che le voglio chiedere, Crisanti, prima di lasciarci, è se c'è qualcosa del virus, un'idea nuova, un qualche cosa che può aver capito recentemente negli ultimi studi che state facendo a voi o Uganeo o altrove. Lei immagino passerà il tempo, anche oltre che lavorare, a leggere, cercare di capire un qualcosa, certo, di nuovo. Certo, ma guardi, come ho detto, sono più le cose che non conosciamo di quelle che conosciamo. Sicuramente da quello sì che si incomincia a capire è che guarisce in maniera diversa da questo virus, cioè ci sono delle persone che rimangono asintomatiche oppure che sviluppano una malattia con pochissimi sintomi, la cui guarigione sembra non dipendere dalla produzione di anticorpi, perché queste persone non fanno anticorpi, e quindi è una cosa interessantissima cercare di capire perché queste persone guariscono, molto simile, probabilmente con un meccanismo molto simile a quello per cui i bambini non si ammalano. È una cosa che scoprire sicuramente ci aiuterà a trovare nuovi meccanismi per difenderci da questa malattia. Altre persone invece che sviluppano una sintomatologia più grave sviluppano anticorpi, e questi anticorpi, se trasferiti ad altre persone, sono protettivi, cioè aiutano a guarire. Il famoso cura al plasma. Esatto, e questa è una delle prime cose che si comincia a capire, che di questa malattia si può guarire in diversi modi. Forse per lei queste terapie al plasma le incentiverebbe? Ma guardi, la terapia al plasma, che poi si chiama immunoprofilassi passiva, cioè nel senso che anticorpi... Sì, no, ma le chiedo solo così un'opinione a sensazione, sì, perché sì, chiaramente sì, ci sì, sono in corso protocolli, sì, eccetera. Guardi, io penso che laddove è possibile debba essere incoraggiata, non è alla portata di tutti gli istituti e tutte le strutture comunque. Certo, va bene, grazie Crisanti, buona giornata, a presto, buon lavoro. Grazie a lei. Traffico.